attraverso le asperità sino alle stelle. E non intendiamo quelle passeggiate che il noto miliardario ha promesso. No, è molto, molto di più. Per Aspera Festival è arrivato alla 17ª edizione ed è una realtà che mantiene i concetti di vivere ogni momento anche negli aspetti che vogliamo definire non immediati, ma è grazie a questo che troviamo la sublimazione dell'incontro, dello spettacolo, della danza, dei motivi di aggregazione sociale, della musica, del teatro, di esperienze immersive, di laboratori. Anche questo di imminente partenza sarà dal 16 al 22 settembre a Bologna e città metropolitana. È arrivato alla 17ª edizione, un numero non certo foriero di sventura come in questo caso, ma di grande, coraggioso e fresco contenuto artistico. Seguiamo la rassegna da quando esiste il Breakfast Club, quindi è un appuntamento di inizio stagione 2024-2025 che non vogliamo assolutamente perdere e darne diffusione. Come vi ho già detto, l'intersezione artistica all'interno della kermesse, e ne daremo approfondimento, sarà una delle parole d'ordine, ma ancora presente in maniera più intensa una parola d'ordine conduttore che sarà appunto il dialogo. Questo dialogo, io cito spesso, è motivo di dialogo. Iniziamo allora il dialogo con, e a breve avremo l'approfondimento con la direttrice artistica Maria Donnoli per questa 17ª edizione di Per Aspera Festival, che ci parlerà anche di un'immagine nel logo, chiamiamolo logo, nel manifesto di presentazione dell'edizione di imminente partenza del festival, che è molto particolare. Io l'ho trovato di una bellezza molto così, mi ha colpito tantissimo. Comunque Maria Donnoli ve ne darà spiegazione. Io intanto mi tengo qui vicino il programma, perché Festival di Arti Performative Contemporanee e anche oltre di più. Ne abbiamo motivo ovviamente di dialogo. Per Aspera edizione 2024 siamo con Maria Donnoli, alla quale do il buongiorno e il ben ritrovata. Buongiorno William, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Città Fujiko. Ormai siamo già in confidenza e in collaborazione, quindi direi di portare la conversazione subito all'età che abbiamo. Che edizione è? L'edizione è la 17, ma non li dimostriamo. No, quasi maggiorenni. Quasi maggiorenni, però davvero penso che una caratteristica importante di Per Aspera sia la sua freschezza sempre, proprio perché il festival cerca sempre luoghi nuovi e per questi luoghi crea dei lavori dedicati, attivando tutta una serie di connessioni con le persone e con gli artisti. Quindi ciò che nasce sempre ex novo e per cui è sempre giovane. È sempre una rinascita, sì. È un'innovazione. Sì, e penso che questo rappresenti la ricchezza e anche la curiosità che porta tutti gli anni a scoprire questo festival, perché non si sa mai che viso avrà. Certo, è anche un aspetto imprevedibile che del resto sarà una delle parole d'ordine della rassegna. Quali saranno i fil rouge del festival? Quest'anno abbiamo un tema e un'immagine. L'immagine è quella di un dinosauro che parla con la sua coda e si chiede: ma con chi stai parlando? E l'idea è stata di chiedere alle artisti e agli artisti di attivare dei dialoghi possibili, di creare dei dialoghi ognuno a proprio modo, e quindi avremo dei dialoghi creati attraverso la danza, attraverso le arti performative, attraverso il teatro, attraverso dei concerti e attraverso dei laboratori che poi confluiscono per le strade, quindi tutta una serie di linguaggi in cui gli artisti si sono messi in gioco sulla creazione di dialoghi. Oh, be, we would be the best of all friends. It turned to be L-O-V-E, and I was your man. So you was my lady friend. We spent time, I found a way to be by your side. Through the ins and outs, the wrongs and rights. After a while of being settled down, I didn't know how to keep the love, cause I was young. I wish I knew then what I know now. I wouldn't let you go. I swear I would've made this love grow. I spent a lot of time and a lot of dough trying to match what we had, and now I was hoping we could find a way. I was hoping we could find to a way to have what we had again today. To have what we had again today. I know it's been some time since you and whoa, I whoa, it wouldn't hurt to try, hurt to try to find our love. Wish that I would've known the treasures I'd found. I didn't know till you left, I loved your smile. Just the other day, your girl said that you can't stand me. I know you don't mean that, can we just slow down a minute and talk it out? I've been through my share of love since then. Ooh, don't know about what you've been through, but nothing compares to what we had. All I know is I need you back, and I know that you need me back. Baby, let's try again to find our love. Oh, I was hoping we could find a way, yeah, baby, to have what we had again today. Again today, baby. Though it's been some time since you and I left you, it wouldn't hurt to try, it wouldn't hurt to try to find our love. Oh no, no, no. I was hoping we could find a way. What we had again. Though it's been some time since you and I. It's too long. It wouldn't hurt to try. It wouldn't hurt to try. To find, yeah, our love. Oh, baby. E anche l'occhio vuole la sua parte, oltre che l'ascolto, oltre che l'intersezione tra le arti, oltre che l'intersezione tra le collaborazioni e le numerose collaborazioni che vi sono con il festival giunto alla 17ª edizione per Aspera Festival, perché anche l'occhio vuole la sua parte, perché parliamo in rete online. No, finalmente parliamo di un programma cartaceo che, perché no, anzi io lo farò, sarà utilizzato come poster d'arredamento. L'immagine è molto bella, questo dinosauro che si ritrova in dialogo, la parola tra le parole filo conduttore della rassegna, tra l'altro è una parola che ripeto spesso, io sono molto ripetitivo, lo sapete, e i termini che adopero di più, tra i termini vi è il dialogo. Ieri abbiamo presentato il programma di laboratorio San Filippo Neri, tra cui appunto sarà presente per Aspera Festival. Vi parlavo di luoghi intersezione, poi la Sala della Musica, la Casa della Cultura Italo Calvino, Calderar di Reno, Bologna Città Metropolitana, non solamente il centro ma anche zone importanti e periferiche. Abbiamo una collaborazione con Pinacoteca Nazionale di Bologna, ne approfitto per citare Maria Luisa Pacelli, direttrice di questa prestigiosa sede che seguiamo con attenzione, come vi ho detto, a Bologna. Grazie a alcune figure, da un po' di tempo a questa parte c'è stata un'importanza culturale molto rilevante e indubbiamente Maria Luisa Pacelli ne è tra queste protagoniste. Abbiamo altre sedi anche al di fuori, come il Museo di Arte Moderna della città di Ravenna, abbiamo, come vi ho detto, i musei civici per l'arte antica a Bologna, ed è in aggiunta per le sedi a Bologna il Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, Raccolta Lercaro, la Serra Madre, le Serre dei Giardini Margherita. Insomma, ora ho portato alcune, perché queste sono solo alcune delle sedi, ma per entrare nel dettaglio del programma, di cui parleremo tra pochissimo con Maria Donnolly, direttrice artistica di Pera Spera. Quando si inizia ufficialmente? Si inizia il 16, lunedì 16, e si va avanti tutti i giorni fino al 22. Alcuni protagonisti? Allora, i protagonisti sono tanti, proprio perché per noi i protagonisti sono gli artisti, ma sono anche i luoghi. E sicuramente c'è un progetto molto importante sui 20 anni di Gruppo Nanù, compagnia di danza che manca da Bologna da, secondo me, un decennio. Questa non ne compie 20. E con loro ci siamo immaginati un progetto speciale che è composto di due dialoghi. Un incontro alle 18.30 nella Sala della Musica, al primo piano della Sala Borsa, che mette in connessione le coreografie di Nanù con le colonne sonore di Bruno Dorella attraverso la mediazione di Simone Azzoni. Quindi il festival si apre con un dialogo, avendo come tema i dialoghi. E la seconda parte invece del progetto speciale di Gruppo Nanù è nella Pinacoteca di Bologna, dove Nanù ha creato un dialogo tra le proprie coreografie e le opere del Guercino. Questo mette insieme arte, innovazione, danza, percorso tutti i tempi e interdisciplinare tra tutti i motivi di incontro. Ho sbirciato che siete presenti anche per il programma di Laboratorio San Filippo Neri? Sì, mentre la Pinacoteca è un partner nuovo, perché è la prima volta che collaboriamo con loro e siamo molto felici di questo, il Laboratorio San Filippo Neri è un partner storico del festival e lì noi portiamo sempre una prima regionale. Quindi nel programma del festival al San Filippo Neri c'è sempre un lavoro in prima regionale, questa volta sarà uno spettacolo teatrale di Francesca Sarteanesi. Si chiama Nikita. Vede in scena due giostraie sotto la ruota di un Luna Park che dialogano tra loro sulla vita. Ancora un altro dialogo. No pressure. Pure heaven. anni 90 arriva la sonorità di drum and bass. Ricordiamo alcuni artisti come Fotek, come Alex Riss. Qua nel disco So Far, il suo disco d'esordio è il brano Field Sunshine. Ricordiamo anche per Talking Loud Ronnie Size, musicisti e producer che hanno rivoluzionato la struttura del ritmo, scarnificandolo in questo modo e portandolo con un motivo sincopato, ma allo stesso tempo dritto, se vogliamo darne una definizione immediata della sonorità del drum and bass. Queste voci che si intersecano a queste sonorità ne danno un fascino ulteriore. Diverse sono le sfaccettature e apparentemente, per così dire, ritmato in maniera seriale, ma all'interno vi sono scritture e composizioni molto particolari. Alex Riss, So Far. In questa parte che andremo ad ascoltare, grazie a Maria Donnoli, direttrice artistica di Per Aspera Festival, abbiamo l'approfondimento di collaborazione con Pinacoteca Nazionale di Bologna. Come vi ho già più volte portato ai microfoni, le rassegne, le esposizioni di questa prestigiosa sede espositiva, anche la capacità importante di saper inserire all'interno di tutto ciò un ulteriore motivo di... Bravi, dialogo, avete indovinato. Ci occupiamo nel Breakfast Club per la rubrica In Mostra di Arte. Hai citato una collaborazione che tra l'altro è anche per la prima volta nella rassegna. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di incontro per Aspera e Pinacoteca? Sì, noi siamo partiti a relazionarci con la dottoressa Pacelli, che è la direttrice della Pinacoteca, e con il suo staff, che ci hanno accolto con grandissima professionalità e con grande entusiasmo, devo dire, a partire da questa idea di progetto di Gruppo Nanù, che è un'idea che era nata già al Mar di Ravenna, lì dove c'è un'opera di Guercino con cui Nanù si era relazionato. E quindi abbiamo pensato, perché non portarlo a Bologna, anche perché siamo anche nell'anno dell'anniversario guerciniano, sì. Quindi abbiamo unito anche questa occasione. E così abbiamo co-creato, lavorando proprio insieme sulla direzione dell'opera, questo intervento che si ripeterà il 17 marzo per 3 volte, alle 19.30, alle 20.10 e alle 20.50, perché le sale non sono certo grandissime, quindi lo offriamo, diciamo, in 3 diversi appuntamenti su prenotazione. When I came in 8 years ago, many Nigerians Tanto che Sun Cooty, figlio di Fela Cooty, con questo afro funk porta le sonorità per intervallare l'intervista con Maria Donnolly per Aspera Festival. Aggiungo, ringraziando, da quel che ho capito, il nostro Piertosi è riuscito a raggiungere il figlio di Fela Cooty, l'artista poi che ha una sua identità, come potete ben sentire, pur mantenendosi ispirato a una radice importante. Sun Cooty con questo brano Many Things. Avete qualcosa di concreto? Avete il programma di Per Aspera Festival, in quanto, come ho già detto, oltre che la bellissima immagine, la possibilità di avere il programma in poster. Ho capito, certo, che non voglio risultare troppo effimero in tutto ciò, però anche l'occhio vuole la sua parte. Cercatelo, trovatelo, perché ieri mi recavo per motivi personali in via Farini, mi sono fermato per un caffè in un bar e ho trovato il programma esattamente come intendevo. Dico, ma pensa a te, può essere un bellissimo poster. When I hear the nonsense things our leaders they do, when I see the yoga of police in prison for stealing, when I hear education minister in scandal for stealing, when I see our senators throw shea pulagada, when I see our senators. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, i motivi di incontro sono diversi. Guarda, mi basta aprire così per avere realtà di contemporaneo negli incontri e nella divulgazione, oltre che un contenuto artistico pregevole. Per quanto riguarda una città, la città di Bologna, che ha trovato negli ultimi anni una crescita culturale, tra cui anche grazie a questa rassegna decisamente importante, il Breakfast Club vicinissimo a tutto ciò, avevo trovato uno spettacolo di cui vi volevo dare approfondimento perché mi ha colpito molto il titolo e adesso lo trovo, perché è Il vecchio con la panda, una cosa del genere. Un attimo che lo ricerco nel programma. Eccolo qui, alle ore 20:30, Il vecchio con la panda, al 5C Lab di Davide Calvaresi, ed è qualcosa di interessante per i contenuti di grande attualità. Ecco, mi è venuto in mente nell'immediato tutto ciò perché ce ne sono diversi dai titoli particolari, li lascerò scoprire a voi. Alcune sedi le abbiamo anticipate con Maria, ma avremo modo di riportarle poi singolarmente, così nei vari last minute del Breakfast Club. E per partecipare a questi incontri, a tale proposito, modalità logistiche di incontro, prenotazioni, insomma tutto quello che può essere utile per partecipazione. Sì, la prima cosa che tengo a sottolineare è che uno dei principi cardine del festival è l'accessibilità. Quindi noi scegliamo di tenere gratuiti tutti gli ingressi, e gratuiti il più possibile, liberi, lì dove appunto ci sia, tranne lì dove ci sono delle condizioni che ci richiedono la prenotazione. Quindi sul sito per asperafestival.org sono indicati gli appuntamenti per cui è opportuno prenotare, che sono questo della Pinacoteca, un concerto micelico di Bologna Modulare che si terrà nella Serra Madre il 20, e due appuntamenti con Blue Motion alla raccolta Lercaro, che è un nuovo partner del festival, il 21 e 22 di settembre. Altro da dichiarare, Maria? No, altro da dichiarare no, se non che vi aspettiamo davvero tutte e tutti in questa edizione, anche per dialogare, certo, appunto, no? Dopo aver tanto immaginato dei dialoghi per farli davvero insieme. Grazie, buona rassegna, buona kermesse. Grazie William, sempre. Eccolo qui, il 18 settembre alle 20.30, 5 Cilab a Bologna, Davide Calvaresi, il vecchio con la panda, un dialogo con ChatGPT. Ogni giorno nel traffico il vecchio con la panda si sveglia e sa che dovrà rallentare un automobilista. Ogni giorno nel traffico un automobilista si sveglia e sa che dovrà superare il vecchio con la panda. Non importa che tu sia vecchio automobilista alla guida, ed è una scena minimale che si apre con un attore solitario seduto a un tavolo e accanto a lui un computer portatile con ChatGPT acceso. Bello leggere queste anticipazioni, insomma, ovviamente la possibilità di partecipazione che vi è stata appena riportata da Maria, il Breakfast Club per quanto riguarda la presentazione di Per Aspera, 17ª edizione Festival di Arti Performative Contemporanee, termina qui, ovviamente la rubrica In Scena procede e vi ricordo che per riascoltare le varie rubriche bene è possibilità o dal mio profilo o sulla pagina Facebook del Breakfast Club Fujiko. Grazie Maria Donnolly per la disponibilità, per i motivi di dialogo, tra poco pubblicità e poi si torna in diretta. Make it funky, lui è Massio Parker. Fred, Fred, Fred, Fred, Fred, Fred, Fred, Fred, Fred, Fred, Fred.